la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori del 24, 16:30 primi 30 secondi, grazie per l'ascolto in diretta in podcast qui alla versione di Oscar. Vi ricordo l'indirizzo, appunto, la versione di Oscar @radio24.it per proporre spunti, avanzare domande, critiche, stroccature o temi di trasmissione e direttamente il vostro intervento. Vi dico subito di cosa parliamo oggi. C'è stato ieri un richiamo molto energico da parte del Presidente della Repubblica, convocando il Presidente di Camera e Senato, Piero Grasso e Laura Boldrini. Tutti i giornali oggi in apertura trovate i resoconti, la notizia, titolo del Corriere della Sera in prima pagina, tra virgolette, subito la legge elettorale. Spinta di Mattarella, Renzi, Orlando, Emiliano sfida in TV sulla larga intesa, però insomma subito la legge elettorale. Il catenaccio era: il capo dello Stato sollecita anche la nomina del giudice mancante alla Corte Costituzionale, la riforma elettorale è urgente, la Camera riparte. Questo è la sintesi del Corriere della Sera, che poi a pagina 2 e 3 faceva un resoconto della eterogenea serie di posizioni politiche su questo tema, e tenteremo di capire infatti oggi con due ospiti che cosa in realtà può davvero avvenire o quanto è un gioco alla reciproca interdizione per poi restare con il proporzionale puro, che è la somma con tetti diversi per Camera e Senato delle due sentenze assunte dalla Corte Costituzionale bocciando i premi di maggioranza non vincolati a tetti minimi, perché la stessa cosa è avvenuta prima per il Senato, poi rimanendo sordi a questo avviso anche sull'Italia, come è avvenuta la stessa cosa, però aveva un precedente sul Senato. Allora, il Corriere della Sera intervista Paolo Romani di Forza Italia, che avanza la posizione di Forza Italia e dice, titolo, il premio alla coalizione, quindi non alla lista, come alla Camera l'Italicum, mentre la coalizione è prevista al Senato, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale su due diverse leggi elettorali. Ma insomma, Paolo Romani dice: il premio alla coalizione, scelta obbligata, posizione Forza Italia. Poi c'è Danilo Toninelli, Movimento 5 Stelle, pronti a studiare correttivi se la base è il legalicum. Il legalicum, per chi non lo ricordasse, sono i test risultanti dalle due sentenze della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha detto sono norme autoapplicanti, sì, cioè in teoria si può votare benissimo per effetto della Corte. Poi leggeremo un'interessante interpretazione che dice no, guardate che è proprio questo che il Quirinale dice di no, due sentenze della Corte non fanno una legge buona per il Paese. E comunque la posizione 5 Stelle è questa. Poi c'è Alternativa Popolare, quindi la pattuglia parlamentare di Alfano. Legge rivista dalla Consulta anche per Palazzo Madama. E quindi qui entriamo in tecnicalità, cioè il gruppo di Alfano propone di estendere al Senato l'effetto della legge elettorale come modificata dalla Corte Costituzionale per la Camera, e quindi abbassare, in altre parole, e per andare sul concreto, i più alti tetti per l'ingresso previsti al Senato piuttosto che alla Camera. Vi ricordo che secondo la nostra Costituzione al Senato la ripartizione dei voti è su base poi regionale e non su base nazionale come la Camera. Titolo poi di un'altra pagina del Corriere della Sera: non solo noi i responsabili, chiuse virgolette, Renzi invita i 5 Stelle ma spera in Berlusconi. E qui avanza un'altra idea, una soglia più bassa del 5% o più bassa per entrambe le assemblee. Come vedete si va a un proporzionale ancora più puro, perché abbassando le soglie del Senato questo è l'effetto. Sulla Stampa, e ora finisco, ma vi parlo solo per ricordarvi quali sono le posizioni in campo, secondo me una delle cose più utili, che almeno per me, per farmi capire, quindi spero anche per voi, era la nota di Ugo Magri, fine osservatore parlamentare politico del Quotidiano di Torino. Un avviso ai naviganti alla vigilia delle primarie: senza riforme non si vota. Questo è il titolo del pezzo di Ugo Magri, che intanto attribuisce un'opinione chiara, un segnale chiaro da parte del Colle. Caro Renzi, inutile che tu premi per votare prima, ti devi occupare allora di migliorare le due leggi elettorali che sì sono figlie dell'intervento della Corte, che sì, secondo la Corte, sono autoapplicanti. Però, scrive Magri alla fine del suo pezzo, Il pranzo del Quirinale, quello con la Boldrini e con Grasso, chiarisce con tono elegante ma fermo che due sentenze della Consulta non fanno una legge. Perciò tocca al Parlamento provvedere e non al governo con un decreto. Prima si fa questa legge, prima si vota. Chi ha fretta dunque, trattino, Renzi, trattino, non perda tempo, perché altrimenti non si vota prima del tempo. Ecco, questa è l'interpretazione della stampa, secondo me utile, perché anch'io mi ci ritrovo in questa intenzionalità, non espressa esplicitamente dal capo dello Stato, ma che probabilmente non si sbaglia ad attribuire al Colle. Ma a questo punto, visto che le posizioni politiche sembrano non troppo omogenee, e visto che non tira più aria di correzione maggioritaria, perché votare come in Francia, in Italia, scordatevelo, titolava sempre la stampa l'altro ieri, tutti parlano di Macron, è vero, il sistema della Quinta Repubblica è entrato in crisi, ma è entrato in crisi perché sono i vecchi partiti a non esserci più, ma intanto la scelta di un presidente eletto e la scelta di una legge elettorale uninominale, maggioritaria, doppio turno e con soglia d'accesso al 12,5%, resta il fondamento, la trama e l'ordito della Quinta Repubblica. Noi abbiamo le posizioni politiche che vi ho riepilogato attraverso i titoli del Corriere della Sera oggi. A questo punto vediamo un pochino cosa ci dicono i due ospiti. Cominciamo dal primo. Abbiamo scelto apposta due persone oggi tra coloro che più tecnicamente hanno seguito la vicenda della riforma elettorale in tutti questi anni, a dire la verità, ma anche negli ultimi passaggi della definizione dell'Italicum, poi la sentenza della Corte e il quadro che c'è oggi per Camera e Senato dopo gli interventi della Corte Costituzionale. Cominciamo allora con Stefano Ceccanti. Stefano Ceccanti, che insegna diritto pubblico comparato alla Sapienza di Roma, ha un passato anche di parlamentare, di ex senatore del PD. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Ceccanti. Buon pomeriggio. Allora, primo, lei è d'accordo sul fatto dell'interpretazione data dalla stampa, cioè dell'attribuzione al Quirinale dell'idea due leggi pur autoapplicanti dopo le sentenze della Corte non fanno una buona legge elettorale, perché insomma il rischio di ingovernabilità è molto forte, quindi caro Renzi o tutti quelli che vogliono andare a votare prima, o intervenite in modifica e in miglioramento dei testi oppure non si vota? È giusta questa attribuzione di intenzione al Quirinale secondo lei? Può anche darsi, però diciamo non è che dalle intenzioni del Quirinale scaturiscano leggi approvate in Parlamento. Perché non vincolano nessuno le intenzioni del Quirinale? Sì, no, anzitutto io vorrei dire questo, stiamo attenti a non promettere cose che non possiamo mantenere. Tipo? Nel senso che se noi ci proponiamo la governabilità, che ci sia una ragionevole possibilità che qualcuno vinca le prossime elezioni, qualsiasi cosa facciamo sulla legge elettorale ora, avendo mantenuto due Camere che danno tutte e due la fiducia al governo, in una delle quali l'elettorato è molto diverso perché votano 18-25 anni, nell'altra no, e così via, diciamo, promette probabilmente cose che non si danno. Cioè, se noi volevamo un vincitore delle urne, o c'era il combinato disposto Italia con riforma costituzionale, oppure ragionevolmente questo risultato si, non con certezza assoluta, ma prevedibilmente si potrebbe ottenere col sistema francese per intero, cioè con le presidenziali. Che oggi è fuori discussione. Quindi cioè, si possono fare dei lifting alle leggi sapendo che queste non produrranno governabilità. Ecco, a meno che quindi lei dice, intanto siamo chiari, correzioni tali da consentire l'indicazione attraverso i meccanismi di definizione della rappresentanza e la produzione dei voti in seggi tali da garantire con certezza la formazione di maggioranze coese per governare attraverso la scelta degli elettori, questo non si può più fare, ho capito bene? No, anche perché diciamo o qualcuno arriva al 40% dei voti sia alla Camera sia al Senato, e questo sia con le leggi che ci sono ora sia con piccoli correttivi che potremmo fare non cambia molto. Allora, se uno dei tre schieramenti arriva al 40%, prende il premio di maggioranza alla Camera, al Senato con gli sbarramenti molto alti che colpiscono gli altri si avvicina alla maggioranza assoluta e governa. Ma questo c'è già con le leggi attuali. Certo. Non c'è bisogno di cambiare. Poi si può sempre migliorare. Tipo, invece, secondo lei, le cose che ragionevolmente, non solo si possono, ma vista la costellazione di diverse posizioni, è forse ipotizzabile, meno improbabile che vengano adottate come modifiche, dovesse indicarne qualcuna? Ma io ne vedo solo due che non c'entrano nulla con la governabilità, che garantiscono una rappresentanza un po' meglio, ma non c'entrano con la governabilità. Noi in questo momento abbiamo, per effetto un po' discutibile della prima sentenza della Corte, la preferenza unica nelle regioni intere, quindi un candidato dovrebbe vagare per l'intera Lombardia, Veneto, la Puglia, per prendersi le preferenze. Ora, diciamo, siccome questa è una cosa abbastanza folle, che richiede spese anche mostruose da parte dei singoli candidati, immagino che tutte le forze politiche possano ragionevolmente pensare di ridurre questi collegi e di fare spezzettare le regioni grandi in più collegi al Senato. Poi resta aperto il problema che è previsto dalla Costituzione nell'articolo 51 dell'equilibrio della rappresentanza, c'è la preferenza doppia di genere, se uno dà una doppia preferenza alla Camera, tanto varrebbe mettere anche al Senato, ma queste sono probabilmente le uniche cose su cui le posizioni di partenza delle forze politiche convergono, sulle altre sono divaricate, non si vede come potrebbero cambiare. Quindi lei dice, per esempio, anche sul tema lista coalizione per omologare le impostazioni che sono diverse, lista Camera, coalizione ammessa invece al Senato, anche quello lei dice no, perché le differenze tra posizioni politiche, le abbiamo elencate prima, sono nette. C'è chi vuole la lista, c'è chi vuole la coalizione, non c'è una posizione chiara. Oltretutto, diciamo, qual è il c'è un problema politico molto serio, che è questo, che passare alle coalizioni anche alla Camera vuol dire, siccome c'è uno degli schieramenti che ha già detto che va da solo, cioè il Movimento 5 Stelle, sembra quasi voler fare una legge contro il Movimento 5 Stelle. Quindi si presta anche a una polemica politica molto forte, a ridosso delle elezioni. Cioè, io non vedo francamente, capisco che i sistemi con cui noi votiamo sono altamente deficitari, sia dal punto di vista della rappresentanza sia rifiuto la governabilità, ma mi sembra logico che questo problema si affronti a inizio della prossima legislatura ripartendo dalla Costituzione e non dalla legge. No, no, ho capito. Lei dice il filo rotto che ha il maggior impatto e che determina questa problematica molto seria, cioè il fatto che non avremo governi indicati con ogni probabilità, lo so, dipende dal no che ha prevalso nel referendum, perché la riforma del referendum era coordinata con l'Italicum precorte, per così dire. Capito bene? Questa è la sintesi. Dopodiché, siccome gli elettori non hanno votato e hanno detto no, non è che noi possiamo ripetere. No, ho capito, è stato chiaro. La mia proposta molto concreta, io auspico, è che si prenda il sistema francese per intero all'inizio della prossima legislatura, il che sembra in questo momento irrealistico, però quando probabilmente ci troveremo in una palude capiremo che... Quando il capo dello Stato dovrà inventarsi cose che lo esporrà al fuoco di fila. Ecco, sì. Non vorrei essere al posto del Presidente della Repubblica dopo le prossime elezioni se andiamo con questa impostazione che, come dice il professor Ceccante, sua opinione comporta la possibilità solo di minimi interventi proprio per evitare il peggio del peggio delle asimmetrie tra Camera e Senato. Sentiamo, facciamo la stessa domanda iniziale al professor Roberto Alimonte. Professor Roberto Alimonte, uno degli autori, per così dire, di prima fila dell'Italicum, insegna sistema politico italiano alla LUIS, scrive per il Sole 24 Ore, direttore del Centro Italiano Studi Elettorali. Grazie di essere con noi intanto, professor Alimonte. Anche secondo lei le modifiche ragionevolmente che ci possiamo attendere, viste le posizioni delle forze in campo, come dice il professor Ceccanti, sono in realtà minime, e il problema della governabilità, il problema della rappresentanza, o che ne so, capilista bloccati, liste coalizioni, sono tutte questioni che poi si vedranno solo una volta che sia già formato il Parlamento con questo criterio. Lei che dice, D'Alimonte? Dico che sono pessimista sia ora che per quanto riguarda la possibilità di cambiare la legge elettorale dopo sì, perché poi sarà un Parlamento frammentato a dover comunque fare una nuova legge elettorale disproporzionale, quindi non vedo come un Parlamento eletto con un proporzionale possa poi favorire la disproporzionalità. Ma parliamo di cose forse un po' più semplici. Innanzitutto bisogna distinguere tra armonizzazione e governabilità. Sì. Non è chiaro cosa intende il Capo dello Stato. Il Capo dello Stato parla di una nuova normativa, quindi si tiene sul vago, anche perché forse delle sue responsabilità, perché un conto è un'armonizzazione, è già quella. Però io sono d'accordo con voi tutti, siete maestri in questo. La scelta di quella parola sembra far capire non minimi interventi correttivi per, diciamo, rendere meno macroscopiche le asimmetrie che esistono nelle due leggi tra Camera e Senato, che poi hanno dei fondamenti anche costituzionali su alcuni punti, ma in altre no, ma parlando di una nuova normativa, sembra anche un intervento molto molto più incisivo. Sbaglio, Dalle Monte? No, nuova normativa vuol dire quello che stavo dicendo, o armonizzazione, nel senso che si fanno riforme, si fanno modifiche per rendere i due sistemi più simili, o potrebbe voler dire una nuova legge elettorale. No, sono due cose, il Presidente della Repubblica non ha parlato, non è entrato nel dettaglio, sono due cose diverse, sono due obiettivi diversi. Ora io sono pessimista in realtà su entrambi gli obiettivi, per le cose che ho sentito dire da professor Ceccanti e anche per un altro motivo, cioè che non so se sia stato detto mentre non ero in trasmissione, e cioè che c'è il voto segreto. Anche quelle cose non controverse, di cui parlava il professor Ceccanti, che non dovrebbero essere controverse, cioè lo spacchettamento delle regioni al Senato in modo che appunto il voto di preferenza non sia regionale. Esatto, che non sia a livello regionale. La rappresentanza di genere, e aggiungo anche una cosa veramente scandalosa, l'idea del sorteggio, il fatto che sì, i candidati più grandi, allora, queste sono riforme non modifiche non controverse. Però secondo me anche queste saranno difficili, perché come sa meglio di me il professor Ceccanti, alla Camera c'è il voto segreto. E col voto segreto potrebbero passare non solo queste modifiche controverse, ma anche qualche modifica controversa, perché poi nel segreto dell'urna non si sa cosa può succedere. Per esempio un emendamento per abbassare le soglie al Senato che non è gradito, alcuni e non ad altri. Quindi anche il voto segreto. Quindi ci sono difficoltà politiche, i diversi interessi dei vari partiti e anche difficoltà, ostacoli procedurali. Quindi già l'armonizzazione secondo me sarà difficile, per non parlare dell'armonizzazione su punti controversi. Io sto parlando di armonizzazione, di una difficoltà di armonizzare anche sui punti non controversi. Quindi lasciamo da parte poi appunto l'armonizzazione su punti controversi, ma uno può armonizzare senza raggiungere l'obiettivo della governabilità. Per questo bisogna partire da questa distinzione. No, certo, anche appunto, quindi l'obiettivo della governabilità, un sistema elettorale che assicura un minimo di governabilità, è un obiettivo ancora più difficile, perché richiede una nuova legge elettorale. Quale legge elettorale? A questo punto una legge elettorale disproporzionale, che potrebbe, visto che il ballottaggio è stato bocciato purtroppo dalla Corte, una legge elettorale con collegi uninominali, a un turno o a due turni, e io non vedo assolutamente le condizioni in questo Parlamento perché ci sia, si possa fare una legge elettorale uninominale, con collegi uninominali a uno o due turni, anche con un misto di collegi, ci sono delle proposte miste, collegi uninominali e liste proporzionali. Insomma, sono molto pessimista, sia sull'armonizzazione che su una nuova legge elettorale che assicuri la governabilità. Allora, da due punti di vista, ma cari ascoltatori, grandissimo pessimismo di Stefano Ceccanti e Roberto Dalle Monte su possibilità reali di modifica della condizione attuale. Ripartiamo però da qui, poi farò una domanda a entrambi uguale e vediamo qual è la loro risposta. Intanto traffico. La versione di Oscar. Allora, Stefano Ceccanti, Roberto Dalle Monte, due accademici, esperti di diritto parlamentare, costituzionale e quindi di leggi elettorali, abbiamo sentito molti dubbi motivati da parte loro sull'invito del Capo dello Stato a un intervento, insomma, anche ampio, se ce ne fossero le condizioni da ovviamente trattare tra i partiti, sulle due norme figlie elettorali, figlie degli interventi della Corte Costituzionale, la Camera e il Senato. Molto scetticismo. La domanda che faccio a Stefano Ceccanti: lei ha detto prima qual è la sua opinione, il no al referendum costituzionale ha spezzato un continuum di coerenza tra gli interventi che si facevano lì e quello della legge elettorale, l'Italicum per la Camera, ma a questo punto il fatto che entrambi voi ospiti diciate sulla governabilità oggi praticamente è impensabile intervenire. Lei dice perché bisogna fare per forza immaginare un intervento coerente in Costituzione anche sulla forma di governo. Per questo fa l'esempio della forma francese, ma complessiva, compreso il presidenzialismo, i poteri del presidente eletto direttamente oltre alla maggiorità del doppio turno nominale di collegio. Però, possibile che due su tre dei poli attuali, i giornali non fanno altro che scrivere, cioè, in altre parole, il polo moderato Berlusconi, chiamatelo come volete, e il polo PD dovrebbero avere, scrivono incessantemente i giornali, un interesse convergente a una governabilità. Lei ha detto prima, vabbè, ma non possono fare un intervento che poi si esponga alla critica dei 5 Stelle, lo state facendo contro di noi. Però, professor Ceccanti, lei mi insegna che nella storia politica i partiti fanno così nelle leggi elettorali, cioè tentano sempre modifiche a proprio vantaggio. Qui c'è un duplice vantaggio, scrivono i giornali, e io non ci ho mai creduto alla convergenza Berlusconi-Renzi, io non ci credo, però molti non fanno altro che sottolineare che questa convergenza c'è. Cos'è che impedisce davvero di credere a un osservatore smaliziato come lei che in realtà questo si possa manifestare? Ma dunque, la premessa è che il polo di centrodestra per le elezioni politiche non esiste. Cioè esistono due mezzi poli, Berlusconi che fa capo al PPE, Salvini e Meloni che fanno capo alla Le Pen, che non sono cumulabili in una maggioranza di governo nazionale. Berlusconi pensa di sì però. Sì, ma non è vero. Cioè, questo no, anch'io lo penso. Secondo me non ci crede neanche lui. Ovviamente Berlusconi ha il problema di andare magari al voto con questa coalizione, ma poi di separarsi, perché la linea di frattura europea è tale che non consente una maggioranza di questo tipo. Di conseguenza lui non può volere un sistema in cui vince davvero con questa coalizione, perché lui vincerebbe davvero, ma poi gli salterebbe il governo immediatamente perché non sarebbe in grado di farlo. E mentre a livello comunale e regionale questa cosa regge, perché non c'è il vincolo europeo, sul piano nazionale non regge. Quindi Berlusconi ha l'esigenza magari di far finta, ma se ci fosse un sistema che garantisce la prima di coalizione una maggioranza, il suo guaio maggiore sarebbe se prendesse il premio, perché poi non sarebbe cosa farsene. Quindi non esiste, cioè non vuole un sistema con un vincitore Berlusconi. Aspetti un secondo, il professor Dalimonte è d'accordo con questa considerazione Ceccanti? Ma sente, l'unico accordo possibile, impossibile, tra Berlusconi e Renzi sarebbe, per assicurare una governabilità vera, sarebbe un accordo sul ballottaggio, reintrodurre il ballottaggio. E faccio un passo indietro. L'istituzione, il fatto che ha determinato la situazione in cui ci troviamo, non è soltanto il voto del 4 dicembre, è la sentenza della Consulta. Sì, certo. Io attribuisco una maggiore responsabilità non agli elettori che hanno votato no il 4 ma dicembre, alla ma alla Consulta, alla Corte, per le due sentenze. Ma mettiamo da parte questo discorso. Oggi, per assicurare in una situazione di frammentazione un minimo di governabilità, bisogna mettere in campo, come succederà in Francia il 7 maggio, le seconde preferenze degli elettori. Gli elettori hanno votato domenica scorsa in Francia i loro candidati preferiti, adesso molti di loro sono chiamati a votare per il candidato che considerano meno peggio, quindi a usare le loro seconde preferenze. Questo è il meccanismo virtuoso per assicurare governabilità, il ballottaggio. Se Berlusconi si convincesse che lui può arrivare con il suo schieramento di centrodestra, perché non credo a quella difficoltà di Berlusconi, che è già abituato di via di coalizioni eterogenee, no, si è alleato con il secessionismo, quindi, sempre quindi il problema di Berlusconi oggi è che teme di non arrivare numero due, capito? In ballottaggio bisogna che ha capito? Quindi questo il ballottaggio è stato affossato, soprattutto non dagli elettori del 4 dicembre, ma dell'idea che potesse vincere il Movimento 5 Stelle in un ballottaggio tra appunto Renzi e Di Maio, diciamo così. Perché Berlusconi non sarebbe arrivato secondo. Se Berlusconi si convincesse di poter arrivare secondo, forse l'idea del ballottaggio non gli andrebbe male, perché in ogni caso a lui non vanno bene i collegi uninominali. Qui il problema è che in una situazione di genere, per assicurare la governabilità, dobbiamo avere sistemi disproporzionali, che sono due tipi. Uno è quello che abbiamo introdotto con l'Italicum, che è un disproporzionale di lista, e l'altro invece è quello del vecchio Mattarello, che è il disproporzionale di collegio. Berlusconi i collegi uninominali non li vuole, punto. Ecco perché non si farà una nuova legge elettorale. Secondo, oggi non vuole nemmeno l'Italicum, che una volta voleva, perché ha timore di non arrivare secondo. Quindi il problema è semplice, questo è il problema. Quindi oggi la preferenza di Berlusconi va proporzionale, punto. E quindi lì resteremo. Che dice il professor Ceccanti di questa osservazione? Perché all'inizio Dalle Monte dice: se Berlusconi si convincesse, virgola, a quel punto avrebbe bisogno di una legge elettorale però che premiasse lo stare insieme, non gli stare separati, cioè le coalizioni e non le liste, di poter arrivare secondo, uno spiraglio ci potrebbe essere per reintrodurre il ballottaggio in coerenza a quello che dice la Corte, cioè con soglie esplicite di voti minimi. Se invece resta convinto di non poter arrivare secondo, rispetto alla gara intanto tra 5 Stelle e PD e Renzi, allora non se ne parla. Ma secondo lei questa osservazione di Dalle Monte, questa premessa, la condivide oppure no, Ceccanti? No, non la condivido, perché io ritengo invece che non esista il polo di centrodestra. Non è vero che si può andare dopo settembre, cioè dopo le elezioni tedesche, e all'ordine del giorno una maggiore integrazione europea con la coalizione Lega Forza Italia, a meno che Salvini non cambi posizione. Ricordiamoci che il governo Berlusconi è caduto perché Bossi è andato contro il vincolo europeo, ha fatto il dito medio alla richiesta della lettera della BCE sulla riforma delle pensioni. Nei prossimi mesi, sul piano nazionale, non su quello regionale e locale, non si può fare in un paese una coalizione con partiti del PPE e partiti repenisti, è proprio escluso. È come se ci fosse una conversa escludendum, quindi accade quello che accadeva tra direi PSD. Che a maggior ragione questo vale se al secondo turno vince Macron sulla Le Pen, mi sbaglio? Sì, ma appunto, perché la vittoria di Macron è la premessa perché Francia, Germania e Spagna vogliono una maggiore integrazione, cioè ci ritroviamo come si ritrovò Prodi nel 96, qualcuno era tentato di dire stiamo fuori non entriamo, no, fin dal, ma nella terza fase nel momento in cui entravano tutti non si può, allora, nel momento in cui Aznar gli disse no, noi entriamo come Spagna, lui dovesse dire vabbè, allora anche noi. Allora, siete d'accordo? Cioè, non ci sono grandi interventi da attendersi. Certo, cari ascoltatori, queste due leggi elettorali così ci danno la certezza che non avremo un governo coeso. Auguri al capo dello Stato, ma partiti a mani libere. Questo significa, io sbatto la testa contro il muro, ma significa questo, partiti a mani libere. Quanto siamo bravi. Grazie professor Ceccanti, professor Dalle Monte, continuate sulla 24, domani mattina torno, stamattina non c'ero per un problema mio e di mia figlia.